ne scrivo una in stil cortese. Tu sarai la mia dama, io per sempre il tuo cavaliere. Al cuor gentil non si comanda, tu sarai la mia dolce condanna. Luna che splende, o dolce ancella, fatto confronto ogni regina è solamente un menestrello. Se fossi un contadino sarai comunque in cima al monte, con te sono un guerriero, pronto all'affronto. Il cielo è terso, fringuagli al canto, tu sei la fata che mi lascia d'incanto. Stregato dalla magia dell'amore, la freccia di Cupido ha fatto pieno centro al cuore. Il cavallo alato vince ancora contro il drago, non perché perisce, perché viene reso buono. Quanti profumi, quanti colori, e l'emozione che si rinnova. Un brivido lungo la schiena, alla tua poesia mi inchino. La mia china stende solo la tua essenza, che sa di rose, di mille fragranze. Crepuscolo ed albeggiare insieme, legna che arde, il fuoco di un cammino. Un paese, la sera in primavera, il firmamento che si riflette in mare. Niente di questo è più soave di te quando ti vedo arrivare. Eh già. Seconda parte, non sono pronto, la tua bellezza mi sconvolge nel profondo. È difficile trovare le parole, innanzi a tanta perfezione. Tu luce di un diamante, sei fiore sul cemento, domani è già arrivato, però con te al mio fianco. E tra di noi c'è qualcosa di grande, una come te è troppo importante. Le rime d'amore del mondo e nel tempo? No. Non sono degni a parlarti del mio sentimento.